ne è uscito effettivamente contento, soddisfatto e rilassato per come è stato trattato. A mio parere questo criterio di valutazione dal basso, che poi dovrebbe essere applicato in realtà a tutte le entità pubbliche, che sono dei servizi, cioè sono delle cose che vengono fatte al servizio dei cittadini, non sono delle cose dove il cittadino viene preso a calci da un potere, ma sono delle cose, sono quasi camerieri che vengono a farti un servizio, allora fare un servizio a te, ok? Quindi tu devi essere contento del servizio, altrimenti il servizio non ha funzionato. Ecco, secondo me il criterio della valutazione dal basso dovrebbe essere anche il principio cardine di tutti gli avanzamenti di carriera nel settore pubblico. Cioè tu puoi far carriera, avanzare, ricevere dei benefit, avanzare nella tua carriera, nella tua graduatoria, eccetera, solo se il servizio che rendi al pubblico è gradito. Se no, vattene a fanculo, hai sbagliato lavoro, vai a fare un'altra cosa, vai a tagliare la legna, magari la legna non si arrabbia se la tagli male o se la tratti male. Ma i pazienti sì, e hanno ragione ad arrabbiarsi, perché non sono lì per romperti le scatole, sono lì a ricevere il tuo servizio, quindi tu devi fargli un buon servizio. Per cui secondo me questo criterio della valutazione al basso dovrebbe essere l'asse portante di tutta la struttura sanitaria, partire dal paziente, appunto, che è il destinatario ultimo del servizio che viene offerto, a salire, per cui per inciso anche tutte le graduatorie, tutti i livelli gerarchici di potere all'interno della struttura sanitaria dovrebbero seguire lo stesso schema, dovrebbero essere valutati dai loro sottoposti, e sono il gruppo di infermieri coordinato dal capo reparto che deve giudicare l'operato del capo reparto, e sono quelli che sono capaci di fornire un buon servizio organizzativo strutturale alle unità in cui operano e che vengono premiate dagli individui che lavorano sotto di loro, sotto la loro gestione, sotto il loro coordinamento. Loro devono essere premiati, devono poter avanzare. Quelli che non lo sanno fare, quelli che non sanno fare questa roba qua, quindi non, così, vedete, si ribalta completamente l'asse, anziché leccare il culo a qualcuno più in alto per ottenere qualcosa e trattare male qualcuno più in basso, bisognerebbe fare esattamente l'opposto, bisognerebbe sempre cercare di aiutare le persone più in basso, farle stare il meglio possibile e eventualmente anche addirittura scontrarsi con le richieste o le pretese di qualcuno più in alto quando queste vanno a confliggere con la capacità di svolgere un buon servizio. Questo ribalterebbe totalmente l'assetto. Ovviamente questo significa anche abbandonare completamente l'idea che la salute sia qualcosa che deve avere un profitto, o anche soltanto che debba stare nei bilanci di quelle, sono cazzate. La salute pubblica è una spesa. Perché è una spesa? Perché è quello in cui lo Stato investe per dare un servizio al cittadino, punto. Quando tu offri un servizio, hai una spesa. Quando tu prendi dei camerieri per un ristorante e vuoi che sia un ristorante dove la gente è felicissima di stare, prendi camerieri gentili, capaci di parlare, comunicare, non dei camerieri che scaraventano la roba nel piatto, mandano a fanculo o litigano con i clienti. È perché per selezionare persone, camerieri che sappiano fare il loro lavoro, che sappiano gestire le persone, li paghi di più. È una spesa. Ecco, la sanità pubblica è una spesa dello Stato e deve essere una spesa dello Stato, lo è di fatto, non ha nessuna necessità di essere ottimizzata.